i podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone. Efficace nonostante l'età. Javelin, il lancia e dimentica. Può un missile anticarro cambiare le sorti di una guerra? Certamente no, ma può determinare una serie di reazioni, ripensare le protezioni attive per i blindati o adottarne di nuove, diverse strategie di movimento per i carri sul terreno di operazione, eccetera, che dovranno essere prese in considerazione. Tra le varie e numerose armi fornite all'Ucraina per difendersi dall'attacco russo, si stanno distinguendo i lanciamissili anticarro portatili, divenuti un vero e proprio incubo per l'esercito di Mosca. In particolare, stanno risultando molto efficaci gli FGM-148 Javelin americani, tra le più avanzate e moderne armi, nonostante abbiano 26 anni, progettate contro i veicoli corazzati, ma efficaci anche contro gli elicotteri in volo a bassa quota. I Javelin sono diventati uno dei simboli della resistenza ucraina, in grado di annientare centinaia di carri armati e blindati inviati dal Cremlino. Questi missili sono diventati cruciali per la resistenza degli ucraini davanti all'avanzata dell'armata russa, tanto da diventarne il simbolo. Sui social circola anche un meme realizzato da un pubblicitario canadese, Christian Boris, che mostra una santa della Chiesa ortodossa, Maria Maddalena, che imbraccia il lanciatore. I Javelin sono di certo le armi più sofisticate e più efficaci nelle mani degli ucraini, ma non sono le sole a loro disposizione. Tra le dotazioni anticarro dell'arsenale ucraino, i più numerosi sono infatti i missili Spike NLOS, di fabbricazione israeliana, e i tedeschi Panzerfaust 3. Ma i Javelin, nell'immaginario comune, hanno assunto un valore simbolico che va ben oltre quello militare. I lanciamissili FGM-148 Javelin, sviluppati in collaborazione tra le aziende statunitensi Lockheed Martin e Raytheon, sono ufficialmente entrati in servizio nell'esercito USA nel 1996 in Afghanistan, dove il lanciamissili fu usato nelle operazioni antiguerriglia. Tiratori ben addestrati erano in grado di effettuare colpi di precisione contro posizioni nemiche inattaccabili con le tradizionali mitragliatrici pesanti e lanciagranate, come caverne e posizioni fortificate. Lockheed Martin sta ora investendo per aumentare il tasso di produzione di missili oltre gli attuali 2100 all'anno. Il traguardo sono 4000 missili all'anno. Allo stesso modo, Raytheon investe per massimizzare la produzione dell'unità a controllo di lancio leggera e riutilizzabile, CLU, Command Launch Unit. Dal 1996 la Javelin Joint Venture ha prodotto più di 50.000 missili Javelin e più di 12.000 unità a controllo di lancio riutilizzabili. Il sistema missilistico dovrebbe rimanere nell'arsenale di armi degli Stati Uniti fino al 2050 ed è sottoposto a continui aggiornamenti per mantenere la supremazia tecnologica contro le minacce emergenti e per supportare l'evoluzione delle esigenze operative. I Javelin sono stati sviluppati per sostituire i vecchi lanciamissili anticarro filoguidati M47 Dragon con un sistema più semplice da usare e versatile, oltre che efficace. L'FGM-148 utilizza infatti un sistema di guida automatica infrarossi, che permette all'operatore di cercare riparo e copertura subito dopo aver sparato, diversamente da quanto succede con i sistemi anticarro filoguidati. Il sistema è composto da un lanciatore riutilizzabile CLU e da un missile IT a combustibile solido, che è in grado di superare le difese e le corazzate attive dei moderni carri anche attaccandoli dall'alto, dove la corazza è più sottile. Il personale di lancio è di norma costituito da due persone, ma il Javelin può essere utilizzato anche da una persona sola. Il bersaglio viene individuato in fase di puntamento ed è agganciato a seguito autonomamente dal missile, senza che siano necessari altri interventi da parte del personale che lo ha lanciato. Lancia e dimentica, per mezzo del calore emanato dal bersaglio stesso. Il puntamento è facilitato dall'elettronica dell'arma che, oltre ad una funzione di zoom, ne include anche una di visione notturna. Quando si preme il grilletto, il javelin viene espulso dal lanciatore in modo da raggiungere una distanza di sicurezza prima che il motore principale del razzo si accenda. Questo serve a non investire con il getto di propulsione chi spara e a permettergli di rimanere ben nascosto o allontanarsi. La squadra di tiro o il lanciatore singolo può cambiare posizione non appena il missile è stato sparato o addirittura prepararsi a sparare al bersaglio successivo mentre il primo missile è ancora in volo. Può essere usato nel combattimento urbano e addirittura essere lanciato da dentro una stanza attraverso una finestra per via della fiammata ridotta. Dal momento in cui viene imbracciato alla possibilità di fare fuoco passa circa mezzo minuto. Un singolo missile costa circa $70,000 e, tra lanciatore e missile, ogni sistema d'arma costa circa $225,000. Nonostante il nome leggiadro significa giavellotto, non è esattamente l'equipaggiamento con il quale ci si vorrebbe trovare a correre attraverso le trincee. Ogni singolo missile pesa circa 12 kg per una lunghezza di 1,10 m, calibro 80 mm, mentre il lanciatore 6,4 kg per una lunghezza di 120 cm. È comunque molto più maneggevole di altri sistemi anticarro come i TOW, che tra lanciatore e missile con contenitore sfiorano il quintale. La velocità alla volata è di 50 km orari in partenza e 250 km orari in picchiata, con un tiro utile tra i 75 e i 3000 metri. È accreditato di poter superare corazze omogenee di 750 mm di spessore, valore che scende a 650 mm nel caso in cui ingaggi carri armati dotati di corazze reattive. Il missile può operare in due differenti modalità: Direct Attack, il missile colpisce con volo diretto il bersaglio a una quota massima di 60 metri superiore al punto di lancio. Top Attack, il missile si innalza fino a 150 metri di altezza prima di colpire, se occorre, in picchiata. La parte superiore dei veicoli blindati si presenta infatti solitamente piatta e non ha tipici profili inclinati e sfuggenti destinati a deviare proiettili di provenienza orizzontale. Nella modalità Top Attack, grazie alla condizione di velocità raggiunta in picchiata, ricade sull'obiettivo con un altissimo potere di penetrazione. Allo scopo di neutralizzare la difesa delle moderne corazze reattive, il missile utilizza una doppia testata HIT. La prima carica esplosiva fa saltare le corazze reattive esterne, la seconda carica principale penetra nello scafo. Sebbene le testate HIT non siano considerate particolarmente efficaci lateralmente contro i carri armati moderni, a causa delle corazzature reattive progettate per deflettere e far esplodere verso l'esterno missili e razzi, in accoppiata con un lanciatore Javelin sono invece considerate assolutamente letali per questi mezzi. La ragione risiede nel fatto che il missile non colpisce il carro armato lateralmente, dove sono presenti le pesanti ed efficienti corazzature, bensì dall'alto. Ciò permette di centrare la parte più sottile e delicata di un carro armato, la torretta col portello di accesso, favorendo la distruzione del mezzo o comunque la sua disattivazione e la neutralizzazione dell'equipaggio. I missili Javelin nelle mani degli ucraini sono diventati quindi un incubo per i carristi russi. Ma quali sono le contromosse utilizzate da Mosca per cercare di limitare i danni ai propri mezzi corazzati? I moderni carri russi, al fine di neutralizzare la minaccia portata dai missili anticarro, hanno sviluppato e testato con relativo successo il sistema di protezione attiva ARENA. L'ARENA Active Protection System è un sistema di contromisure di tipo attivo, sviluppato dall'ufficio di design ingegneristico russo Kolemenskoye per proteggere i veicoli da combattimento corazzati dalle armi leggere anticarro, dai missili anticarro guidati e da quelli progettati con capacità d'attacco dall'alto. Dopo le disastrose perdite riportate dalle forze corazzate russe durante la prima guerra cecena, la maggior parte delle quali provocate da RPG, Kolemenskoye nei primi anni 90 ideò il sistema di contromisure attive ARENA, che adotta un radar Doppler a lunghezza d'onda millimetrica per determinare le testate in arrivo. Quindi spara un proiettile difensivo che è programmato per detonare immediatamente sopra il bersaglio e inondarlo con submunizioni. I podcast di Rivista Militare, letti da Giulia Marrone.